Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentrovati, buon pomeriggio, sono le 16.07, mercoledì, oggi sono qui con, sono Luca Tremolada e sono qui con Sandro Mangiatera, quindi insomma parliamo di storie di impresa, di cultura di impresa, di imprenditori e di imprese in difficoltà. E di imprese che contro le difficoltà reagiscono con l'unica ricetta utile, vincente, che è sempre la stessa, quella dell'innovazione. Il titolo è Chi si siede è perduto, il titolo di questa puntata, anche questo qua tutto merito della penna di Sandro Mangiaterra, perché di cosa andiamo a parlare? Di sedie, non solo. Sì, allora andiamo a parlare di un settore che è molto colpito dalla crisi, che è quello del mobile arredamento, però è anche uno dei nostri settori vincenti, tradizionali. Noi abbiamo un fortissimo, abbiamo tanti distretti la sul mobile, Brianza, il Pesarese, in provincia di Udine, quindi noi abbiamo una grande tradizione, però il settore è fortemente in difficoltà. E in particolare il settore, il distretto che è più in difficoltà è proprio il distretto della sedia, che è a Manzano in provincia di Udine, dove legno ci sono... arredo, tra l'altro si dice in legno arredo, ma lì, legno arredo, ma lì lo chiamano il distretto della sedia. Tu una volta, non so se c'è ancora, ma forse il nostro ospite ce lo potrà dire, entrando a Manzano c'è una grossa sedia proprio per far capire che lì siamo nella come negli stabilimenti, patria della come, sedia, come negli stabilimenti balneari che fanno vedere la sedia sdraio enorme per entrare, una cosa di questo tipo, ecco. E allora perché, da qui il nostro titolo, chi si siede è perduto, perché proprio il distretto della sedia di Manzano è uno molto colpito dalla crisi, ma noi abbiamo un ospite che è, come dire, quello che si difende meglio, anzi che vuole contrattaccare. Buongiorno Alessandro Calligaris, è in buongiorno collegamento. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, noi siamo quindi in collegamento con Alessandro Calligaris e abbiamo anche una scheda per i nostri ascoltatori, insomma, per capire chi è Alessandro Calligaris. Nel 1986, quando è arrivato alla presidenza, la Calligaris di Manzano, in provincia di Udine, era ancora un'impresa artigianale che produceva sedie in legno impagliate a basso costo. Alessandro Calligaris l'ha trasformata in un'azienda con 160 milioni di fatturato, 650 dipendenti e una presenza in 90 paesi del mondo. Il distretto della sedia di Manzano è fortemente colpito dalla crisi. La Calligaris, però, non è rimasta seduta. Intanto, a poco è stata realizzata una completa linea d'arredamento. In catalogo sono offerti 800 modelli e addirittura 7.000 varianti di prodotto. Poi sono iniziate le collaborazioni con decine di designer italiani ed esteri. Infine, si è puntato sulla ricerca tecnologica, introducendo, oltre al legno, combinazioni di altri materiali, plastiche, alluminio, leghe di acciaio, metacrilati. Sarà anche vero che quello del mobile è un settore maturo, ma l'innovazione è possibile ovunque. Risultato? La Calligaris è oggi uno dei simboli del Made in Italy. Prodotti belli, di alta qualità, ma a prezzi accessibili. Allora, Calligaris, sì. I temi sono tanti. Io da appassionato di tecnologie voglio subito capire se ci spiega sinteticamente quali sono le linee di innovazione. Cioè, quando uno pensa a una sedia, pensa a una sedia. Cioè, al limite posso pensare a un design particolare, però quello è gusto dal mio punto di vista, estetica. Però, insomma, qua si è parlato di materiali. Ma allora, innanzitutto grazie all'opportunità che mi viene data. Io vivo, la mia azienda diciamo vive in un contesto qui del distretto cosiddetto della sedia. Noi fortunatamente diciamo abbiamo avuto un'attenzione a non rimanere fermi o seduti solo sulle sedie, ma diciamo di aggiungere anche il tavolo ed altri prodotti diciamo dell'arredamento. Per quanto riguarda la sedia, soprattutto nei tavoli, quali sono i sistemi innovativi o dove si va maggiormente a lavorare sotto l'aspetto innovativo? Si va a lavorare nelle parti che possono dare dei vantaggi in termini ad esempio di allunga, ad esempio i tavoli solitamente sono delle superfici che hanno bisogno in certi momenti di avere veramente di dare ospitalità agli ospiti appunto che arrivano a casa. Cioè, quindi mi sta dicendo il tavolo che si allunga. Esatto, quindi il tavolo che si allunga, ma il tavolo che si allunga non è un'invenzione nostra, ovviamente il tavolo che si allunga credo che l'abbiano inventato 2000 anni fa. Il problema è di far sì che un tavolo si allunghi in maniera automatica senza far sì che ci sia la persona che prende una lunga, se la sposta, se la tira, quando le gambe del tavolo si spostano e nello stesso contempo permettono di far entrare delle sedute senza far sì che l'ospite poi si trovi la gamba del tavolo in mezzo alle proprie gambe, no? Quindi sistemi di allunga che possono permettere al momento di ospitare più persone, sistemi di allunga automatici, sistema di allunga che siano molto facili da gestire, soprattutto perché quando pensiamo che un tavolo è all'interno di una casa, non che si allunga tutti i giorni, cioè magari solamente certi momenti dell'anno, Natale, giusto, e quei momenti importanti che sia facile, che non sia complesso, perché la famiglia non pensa solamente a questo. Quindi aspetto. Piccoli accorgimenti che però sono anche sono, questi sono innovativi, importanti in termini di usufruibilità, no? Ad esempio, ecco, ma Calligari, se ci faccia capire una cosa, cioè lì cosa c'è, un ingegnere che studia un metodo diverso di allungare il tavolo? Ecco, senz'altro qui non lavoriamo sotto un aspetto formale della forma, del design solo, ma qui lavoriamo anche praticamente sotto un aspetto tecnologico, quindi anche di brevetto. Ma quindi avete dei brevetti quindi per sicuro, il tavolo? Sicuro. Ma voi avete anche un vero e proprio centro ricerca, giusto Calligari? Che noi abbiamo all'interno nostro ovviamente una struttura che fa praticamente lo stile e allo stesso tempo quindi progetta in continuazione dei prototipi, e dopodiché quelli che i prototipi che sono interessanti per il mercato, dopo aver fatto un'analisi insieme al responsabile marketing, questi prodotti praticamente vengono industrializzati per essere poi lanciati sul mercato. Allora, scusi la curiosità, però insomma io da un tavolo non pensavo di tirar fuori grande ricerca e sviluppo, invece mi accorgo che c'è. Ma i tavoli sono disegnati al computer, quindi c'è un CAD, un programma. CAD che si fanno praticamente oggi veramente come lei ben sa, abbiamo dei sistemi di software che ci permettono di fare dei progetti guardando il manufatto che si vuole realizzare in tutti i suoi aspetti, no? E di conseguenza ovviamente già dall'idea si può vedere quello che si vuole ottenere. È logico che poi per creare dei movimenti bisogna entrare poi nel vivo della materia, di conseguenza avere anche degli ingegneri che abbiano la capacità di fare delle soluzioni semplici, resistenti e a basso costo. Però Calligari, voi avete anche appunto aggiunto materiali nuovi rispetto al tradizionale legno, giusto? Come no. Il nostro distretto qui è nato con il legno, è un distretto che è cresciuto quindi con un monoprodotto che è la sedia e con un monomateriale che era il legno. Fortunatamente l'azienda Calligari ha avuto praticamente una grande attenzione a non rimanere ferma praticamente a questa materia, che ancora è una materia per me nobilissima e che la sento molto vicina, e difatti io sono una persona che quando posso cerco di spingere ma qual è il materiale più innovativo utilizzate? Il titanio? No, allora che il titanio non lo usiamo, perché nella sedia sarebbe assurdo veramente usare materiali di questo tipo se non per delle prototipazioni a livello così di valutazioni. Per i materiali, per i prodotti che vengono messi sul mercato, quindi di uso comune, si usa l'alluminio e le plastiche. Ma quindi inquinate un sacco, sono... Non è detto che per fare alluminio ci sia un inquinamento importante, dipende anche lì da come si vuole fare il manufatto. Io credo che ci debba essere sempre il giusto rapporto, il giusto equilibrio tra costi, che dopo siano costi energetici, costi appunto dell'inquinamento, costi di quant'altro, rispetto appunto al prodotto che si vuole realizzare. Lo dico perché gli ascoltatori di Radio 24 sono sempre abbastanza attenti a questi temi. Ecco, la cosa che volevamo capire è Caligaris, un secondo solo, altrimenti ci sovrapponiamo. Una cosa, quello che volevamo capire è innanzitutto come vengono utilizzati questi nuovi materiali, cioè, anzi questi nuovi materiali, questi vecchi materiali, insomma le plastiche sono antiche. E in secondo luogo volevo capire da un punto di vista di materie prime, cioè voi dove acquistate il legno? Cioè è aumentato molto in quest'ultimo periodo, anche per capire anche andare un po' a sondare quelle che sono state le ragioni della crisi. Allora, il legno in Italia purtroppo non c'è, ossia praticamente abbiamo ovviamente solamente dei legni che sono ovviamente di aghifoglie, quindi pino, abete, soprattutto quindi che sono posizionati su delle montagne anche che non permettono diciamo una facile gestione della foresta. Noi usiamo soprattutto latifoglie, quindi faggio, e questi legnami qui sono sempre provenuti dai paesi dell'est europeo. Una volta probabilmente ex Jugoslavia oppure Cecoslovacchia, Polonia e quant'altro. Oggi la Caligaris praticamente ha uno stabilimento in Croazia, proprio praticamente in una zona boschiva, e quindi veramente ha la possibilità di utilizzare questo legname che le viene fornito dalla forestale croata e quindi trasformarlo in componenti per poi portare questi elementi di legno in Italia, dove vengono assemblati, verniciati e fatte tutte le lavorazioni per rendere praticamente il manufatto finito. Senta Caligaris, ma voi il vostro slogan è appunto il bello, il made in Italy a prezzi accessibili, no? Sì. Questo è un po' il vostro slogan. Ma l'IKEA è in qualche modo un vostro concorrente? Allora, l'IKEA è un concorrente in termini di dello stesso prodotto, ma con un target completamente diverso, no? L'IKEA è una grande multinazionale che non produce, è una multinazionale che commercializza, è una multinazionale che fa realizzare i suoi prodotti dai diversi produttori ubicati nel mondo, cerca fonti produttive al miglior prezzo possibile, giustamente, è logico, per ottenere questo deve andare dove c'è un costo del lavoro anche molto basso. Ecco, però Caligaris, quindi lei mi sta dicendo che geneticamente siete un po' diversi, fate due mestieri un po' diversi, però... No, siccome so che l'IKEA è sbarcata in Friuli dalle vostre parti, creando un po' di scompiglio nelle imprese del mobile arredamento friulane, mi domandavo se in qualche modo questo scompiglio l'ha creato anche a un'azienda come Caligaris, che appunto è un di target più alto, No. Alla Caligaris l'IKEA non crea scompiglio, perché diciamo abbiamo due target completamente diversi, ma anche diciamo l'altra industria del mobile italiana. Ma quali sono, scusi, questi target? Allora, mentre abbiamo un'IKEA che lavora su un prodotto diciamo basico, quindi praticamente dove c'è una grande attenzione sicuro all'industrializzazione del prodotto e riesce praticamente a realizzarlo in paesi a basso costo e quindi praticamente con grandi numeri, che dove quindi riesce veramente a portarlo sul mercato a dei prezzi molto competitivi, però porta un prodotto smontato, in quanto diciamo è il consumatore che deve poi montarselo, ed è un prodotto diciamo che ha un'identità, come ho detto prima, di base, no? La Caligaris, come altre aziende italiane del settore arredamento, fanno un prodotto invece dove c'è un'attenzione maggiore al design, una forma diciamo molto attenta, l'uso di materiali nobili, c'è praticamente un target dove si identifica il reale valore praticamente di questo Made in Italy. Adesso c'è tutto più chiaro. Noi abbiamo in collegamento il professor Michele Morgante, delegato alla ricerca dell'Università di Unide. Sì. Buongiorno. Buonasera. Buonasera, io continuo a dire buongiorno perché sbaglio. Morgante, allora ci spieghi un po', lei che è comunque è di lì, il settore del mobile arredamento italiano e in particolare quello friulano deve alzare il valore aggiunto, deve cercare un prodotto più sofisticato, più ricercato, più innovativo, oppure deve andare a fare la concorrenza sul rapporto qualità-prezzo anche all'IKEA senza paura? Ma io credo che tutte le due strade siano percorribili. Sicuramente l'Italia ha una tradizione dal punto di vista del design d'arredamento di livello alto, con oggetti di grande gusto estetico e di grande qualità. Però bisogna anche considerare che lì non si fanno i volumi e che gli unici mercati che al momento continuano a crescere sono quelli dei paesi emergenti, cosiddetti BRICO, dove non sono quelli i prodotti che sono più facili da collocare. In che senso? Credo che le esigenze lì al momento siano quelle di un prodotto che sia di più largo consumo se si vuole puntare sui volumi. Io credo che l'esempio IKEA sia un esempio calzante. Bisogna ricordare che le innovazioni non devono solo essere innovazioni di prodotto, possono anche essere innovazioni di processo, e da un certo punto di vista IKEA ha introdotto un'innovazione di processo con questo modello di delocalizzare la produzione e far produrre localmente quello che poi vende nei singoli paesi. Credo che l'Italia, che da un certo punto di vista è stato un pioniere nel modello IKEA con Benetton, poi abbia abbandonato quel settore, che oggi invece è un settore dove IKEA nel mobile, Zara e H&M nell'abbigliamento stanno occupando con grande successo. Quindi credo che dovremmo preoccuparci di tutte e due le cose. E quindi sia di alzare il valore aggiunto, come si dice, quindi la qualità, e anche il tasso innovativo, cioè di portarci verso un target più alto, per intenderci. Però teniamo conto che in un momento di crisi il consumatore guarda soprattutto al rapporto qualità-prezzo. Ecco, quindi secondo lei, Morgante, allora ci aiuti a capire, la crisi del mobile arredamento, in particolare in Friuli, è stata dovuta all'incertezza nello scegliere il target? Nel posizionamento strategico? Forse ha pesato molto anche la struttura d'impresa. Non ho sentito. La struttura d'impresa. Forse ha pesato molto anche la struttura d'impresa, cioè il fatto di essere imprese molto piccole non ha permesso di investire adeguatamente in ricerca e sviluppo. Quel trade union che dovrebbe esserci fra ricerca universitaria e impresa non c'è stato. Di fatto, in un sistema imprenditoriale con imprese molto piccole è gioco forza che l'università debba farsi il laboratorio di ricerca dell'impresa. E purtroppo gioco forza non è avvenuto come invece sarebbe dovuto succedere. Morgante, è gioco forza nel senso che il suo è un auspicio o è una richiesta vera e propria? No, il mio è un auspicio, voglio dire. Credo che questi fantomatici laboratori pubblico-privato di cui si parla tanto, in certi sistemi economici non siano necessari. Nel sistema americano, con le grandi multinazionali, loro non hanno bisogno del laboratorio misto pubblico-privato, perché le grandi imprese possono tranquillamente finanziarsi ricerca e innovazione da soli. Ecco, tra l'altro a conferma è necessario che ci Morgante a conferma di quello che ci stiamo dicendo, anche gli SMS che stanno arrivando, insomma, puntano soprattutto sui prezzi, cioè chiedono prezzi più bassi, il che è oggettivamente un segnale del fatto che probabilmente anche l'innovazione di processo ha pesato, forse anche in un momento come questo, per cui insomma, da un tavolo forse chiedi che stia in piedi alla fine della fiera, mi viene da dire. Morgante, Quindi c'è un tema di dimensione che però è la grande metafora dell'Italia, quello del nanismo, dell'impresa, imprese piccole che fanno fatica ad avere... Ci ha dato vantaggi e ci ha dato anche svantaggi. È chiaro che in tutte le cose non si può avere tutto, c'è sempre un bilancio fra costi e benefici. La piccola impresa ha avuto il vantaggio della flessibilità, però ha altri svantaggi. In questo momento forse pesano più gli svantaggi che non i vantaggi. Allora, io ricordo 824-0024, insomma, se tornate da un mobilificio, un salone dal mobile, non siete contenti, volete segnalarci che cosa vorreste portare in casa e a che prezzo, oppure continuate a scrivere come state facendo al 349-238-6666, sono gli sms. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono. Stiamo parlando di sedie mobili, insomma, stiamo cercando di capire dove sta l'innovazione, i motivi della crisi. Stiamo capendo anche che appunto si può innovare persino un tavolo. Ah, mamma mia. Allora, con brevetti. Allora, noi siamo in collegamento con Alessandro Calligaris della Calligaris e con Michele Morgante dell'Università di Udine. Io volevo chiedere, fare una cosa che non si fa di solito in radio, cioè chiedo a Morgante se ha una domanda da fare a Calligaris. Ci siete? Vorrei sapere qual Buonasera, vorrei sapere qual è la sua esperienza nel rapporto con l'università, e non intendo dire solo l'università di Udine, che è quella a voi più vicina, in generale. Cioè, se vedete l'università come una risorsa oppure no? Ecco, faccio una breve introduzione. Prima si era detto che, insomma, è importante per la fabbrica del mobile italiana nel suo complesso. E in generale per la piccola e media impresa italiana. Esatto, insomma. Cioè, insomma, cercare di dialogare con l'università per acquisire un po' di ricerca. Anzi, Morgante ha detto una cosa in più, cioè che l'università in qualche modo dovrebbe diventare il centro ricerche della piccola e media impresa. Allora, Calligaris, risponde al professor Morgante, qual è il vostro esperienza, il vostro rapporto con l'università? Diciamo che non è che abbiamo un'esperienza molto approfondita, diciamo che abbiamo avuto comunque dei rapporti con l'università, soprattutto diciamo con la facoltà di ingegneria, dove proprio per aspetti proprio tecnologici abbiamo trattato insieme alcuni temi. È logico che l'università, diciamo, dovrebbe essere veramente la parte, la mano destra, diciamo, che dovrebbe guidarci proprio in questa innovazione di prodotto. Forse, diciamo, anche noi come imprenditori certe volte non abbiamo la capacità di relazionarci, certe volte magari ci adattiamo all'interno di casa nostra a gestire al meglio lo sviluppo delle idee e di quant'altro. Credo che viviamo un momento di distanza, dobbiamo appunto lavorare per essere più vicini. Ero proprio stamattina all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università proprio di Udine e lì proprio si è capito che siamo un attimo distanti tra impresa e formazione scuola. Ecco, io vorrei, quindi insomma non è andato, cioè non va benissimo il rapporto Sandro con le università, non sono l'unico caso. Soprattutto nel momento di crisi, insomma, questo rapporto impresa-università mostra la corda, mi pare. No? Proviamo ad andare in Brianza, cioè passiamo dal Friuli alla Brianza, perché abbiamo, per vedere un po' se insomma se ci sono problemi comuni. Come va da quelle parti. Esatto, perché abbiamo con noi Rosario Messina, presidente della Fludi Meda. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, agli ospiti e agli ascoltatori. Buongiorno. Lei un po' ha sentito quello che... Sì. Allora, anche per lei la domanda, insomma, che a noi piace tanto, per capire insomma se anche voi state mettendo mano all'innovazione. Ma guardi, intanto io ho la fortuna di avere un'impresa che proprio per l'innovazione è nata, cioè noi nel 78 non è che abbiamo inventato un letto, abbiamo rifatto il letto, cioè abbiamo fatto il letto in un modo nuovo come non era precedentemente. Questa conferma che il settore del mobile nel tempo non si è mai fermato di fare innovazione. Semmai ci sono dei momenti in cui i mercati tirano in modo particolare e non è tanto per distrazione o scelta, si pensa a produrre un po' meno, a seguire l'innovazione, ma sono periodi dei 6-8 mesi. Noi quando abbiamo avuto l'attacco cinese. 10 anni fa tutte le imprese abbiamo portato innovazione nei prodotti, nei macchinari, nei processi produttivi, nei sistemi organizzativi, e oggi abbiamo delle aziende efficienti al 100%. Evidentemente ci troviamo in una situazione mondiale di ridimensionamento dei consumi che bene o male tocca un po' tutti quanti, però l'innovazione è, diciamo, nel nostro DNA. Senta, ecco, Messina, voi nel 78, la riassumo io per i nostri ascoltatori, nel 78 è nata Nathalie. Esatto. Nathalie era il primo letto tessile di tessuto che arrivava nel mondo, giusto? Sì, certamente, come no. Allora, che cosa aveva? La struttura e la biancheria e lo schienale, è nato il famoso letto di tessuto. Esatto. E voi l'avete... Questa è stata una... più che un'innovazione, addirittura una rivoluzione, ma, no, nel letto. Ecco, ma è una rivoluzione che direi è nata in modo collaterale, cioè tutto nasce dal modo nuovo di fare il letto, cioè al posto delle coperte era arrivato il piumone, come usano un po' nei paesi nordici, ma il nostro italiano direi che è più funzionale, perché intanto si rimbocca sotto il materasso e sborda a destra e a sinistra del materasso, mentre quello nordico è la stessa misura del materasso, se uno si muove parecchio rimane scoperto. Ma con questa opportunità, innovando in questo sistema, noi abbiamo apportato due cose importanti. Uno, scusi che purtroppo per il periodo il raffreddore è ci dica. Il problema importante è che noi abbiamo apportato la sfoderabilità, il fatto di poter avere un letto che non fosse più un prodotto che quando lo voglio cambiare ne devo comprare uno nuovo. Cioè, questo letto accompagna da 31 anni la vita delle persone, sia per il gusto, per i colori, per gli umori. Però è diventato un po' come la Vespa, no? Il letto flu è come la Vespa, sinonimo, certo, no? Certo, ma quello che volevo chiederle, Messina, è questo: ma dopo il 78 e dopo Nathalie, nel 2009, qual è la prossima Nathalie, cioè la prossima rivoluzione nell'arredo mobile? No, premesso che il Nathalie da allora ha avuto una serie di innovazioni, perché siamo andati da un letto base allora, oggi ci sono 20 versioni, per cui c'è quello col contenitore, con lo schienale reclinabile, perché spesso si vede alla televisione, c'è quello con i due letti singoli che un domani... Ma il prossimo asso che calerete... L'asso l'abbiamo calato quest'anno al Salone del Mobile, perché considerando che ormai il letto tessile era diventato di tutto e di più, evidentemente noi, intanto anche per avere un parallelismo fra la nostra qualità e la qualità globale della camera da letto, noi abbiamo proposto una gamma di guardaroba che sono quelli che in gergo... Che però non è mobile... O è mobile? No, è mobile, è l'armadio. Quello ah, che è l'armadio, ecco. Ecco, noi li abbiamo chiamati gli armadi, oggi direi che la denominazione armadi nasceva dalla produzione industriale. Ecco, perché la domanda, io provo a riassumere anche un po' quello che sta succedendo, che insomma quello che scrivono sugli sms, quello sì, insomma, il messaggio un po' che si può estrapolare, sì, insomma, bello, ci sono sicuramente dei prodotti di qualità, però non, il messaggio non è proprio io scelgo IKEA, però insomma, in questo momento la leva del prezzo è importante. Sì, ma vede, in questo momento c'è anche una grandissima confusione, perché anche il privato purtroppo quando si avvicina ad un acquisto non si avvicina con un sistema di approfondimento sulla formulazione del prezzo, ma anche i materiali che in questo momento sta comprando. E la diversità è questo, che mentre IKEA, fortunatamente per loro, ufficializza un prezzo ed quello, nell'ambito del commercio di mobili dove c'è la libera concorrenza, il prezzo 100 a volte diventa 85-80. Ma il problema importante è che essendo noi un popolo di creativi, di artisti, per cui compriamo molto spesso più perché ci piace, per gusto, che non razionale, un po' come i tedeschi che vogliono sapere tutto, io ho scoperto anche degli amici miei che hanno comprato un prodotto che in teoria sembrava che costasse meno, quando hanno fatto letto, materasso e biancheria hanno visto che costava di più. Io credo che il cliente finale debba impiegare un po' di tempo a sapere che cosa sta comprando, perché se noi avessimo dei prezzi alti, poi attenzione, per esserci una regola c'è anche l'eccezione. No, può no, certo, insomma, lei quello che ci sta dicendo è, insomma, chi più spende meno spende, però... No, le dico che è probabile, che io non do per scontato che tutti noi siamo impeccabili, per carità, ci può essere qualche azienda, perché ogni cosa ha il suo tempo, quando il mercato tirava alla grande, probabilmente ci può essere un'azienda che in quel momento ha un prodotto che costa un 5% in più. Il problema estremamente importante è che c'è una confusione di offerta, per cui il cliente trova finale il pullover di cashmere a tre fili, quello a un filo, quello di lana e quello di lana riciclata. È chiarissimo. Sai qual è che, guardando proprio questo mercato un po' dall'alto, è che a volte manca il prodotto. Esatto, come appunto parlavamo della Vespa, il prodotto Vespa, cioè il prodotto, insomma, che è un marchio che è chiaro, è molto differente da tutti gli altri, che ha delle caratteristiche, non dico inimitabili, però che lo rendono particolare. Ecco, forse proprio, lo dico un po' da persona che è un po' scettica, forse bisognerebbe imparare a fare il tavolo in maniera molto italiana, se mi passa il termine. Sì, no, ma il problema, diciamo, che noi nell'ambito del letto la Flu è un riferimento ormai da 31 anni, ma molto spesso, dico, scusi, noi abbiamo anche un letto che costa 1.450 euro, per cui se mi si dice che questo prezzo è di fascia alta, cioè il problema è che i prezzi variano in funzione dei materiali. Quello di cui sto parlando è un letto in estrusione di alluminio con le testate imbottite, poi se parliamo chiaramente di un letto con un tessuto straordinario o con una pelle, è come se parlassimo di macchine, una cosa è la cilindrata 2000 del Mercedes, una cosa è 5000. Noi, essendo specializzati nei letti, abbiamo un sistema di offerta trasversale, per cui l'impiegato o l'operaio può benissimo comprare il nostro prodotto. Allora, abbiamo un minuto. La crisi in Brianza com'è? La crisi si sente un po' meno, ma la crisi è nel mondo, perché è stata molto dura. Stiamo reagendo con l'innovazione, siccome il mobile made in Italy, il design, la qualità, ha 150 paesi del mondo che ce lo comprano, fortunatamente la sentiamo un po' meno. Allora, io ringrazio Alessandro Caligaris, Michele Morganti e Rosario Messina. Nova Lab 24. Bentornati, Pierangelo Soldavini è con noi per presentarci fresco di stampa il numero di Nova 24 che uscirà domani con il Sole 24 Ore in edicola. Quindi da non perdere. Assolutamente. Perché parliamo di un argomento che è un po' sulla bocca di tutti. Certo. Perché soldi. Parliamo di soldi, di innovazione nelle banche. Cioè, siamo andati a vedere, al di là di tutti i problemi che sono alla base o come conseguenza della crisi di cui tutti parlano in questo periodo, siamo andati a vedere un pochettino come stanno cambiando le banche. Perché ci siamo detti, l'online banking ormai è datato, è un sistema ormai consolidato ma in qualche modo vecchio, già entrato nel sistema, ecco, come sta cambiando la concezione della banca, e in effetti ci siamo accorti che qualcosina sta succedendo e soprattutto che sta cambiando la concezione proprio della banca. Però diciamo subito, cioè, è sempre un casino, cioè è sempre complicato, cioè non è, cambia tanto, non è che arrivi e tutto bello. No, ecco, come, cioè, nelle pubblicità, voglio dire, il mestiere rimane quello, non è che possiamo cambiarlo, insomma, ecco, non diamo false speranze. Con una metafora, Carlo Alberto Carnevale Maffei, che è professore della Bocconi, che ragiona proprio su questi argomenti, sull'innovazione in banca, dice: sta crollando un po' la vecchia concezione della banca come tempio, no, dove vengono custoditi i soldi. Sta diventando più una piattaforma, il che non vuol dire che faccia esattamente lo stesso mestiere. Poi dopo i servizi, la concezione del servizio dovrà cambiare, ma sta cambiando proprio il modello di business, per cui anche l'online banking era finora concepito dalle banche come un altro canale per arrivare, alternativo alla filiale, per arrivare al cliente. Quello che si sta affermando è un modello di banca piattaforma, dove uno entra un po' come un supermercato. No, entra... Tra l'altro, posso dire una cosa, perché c'è Mangiatera che ti osserva proprio sornione mentre stai parlando. Non si capisce. Tu invece un soldino per il pensiero di Mangiatera, cioè una monetina. Mi tenevo il pensiero finale. la citazione di Sylvester Stallone: ho combattuto assassini e stupratori, ma voi banchieri siete peggio. Ecco, noi detto questo, appunto, noi stavamo cercando di andare da un'altra strada, ma ci porta direttamente la... No, ecco, appunto, il concetto noi lo facciamo ovviamente da Nova, per cui questo è il problema al quale poi ci si scontra, le aziende, i singoli si scontrano ogni giorno. Noi non vogliamo dipingere una banca fantastica, però una banca che sia più vicina, più amica, e soprattutto la novità è che si stanno affermando dei modelli di rete modello web 2.0, per cui abbiamo diciamo dal lato della domanda dei clienti una possibilità di organizzarsi che prima non c'era. Allora, per fare un esempio molto semplice, il social lending, che si è formato al di fuori del circuito bancario, poi si appoggia alle banche, ma è nato completamente al di fuori. Cosa vuol dire? È un sistema nato su internet di relazioni, di rapporti in cui io sono affidabile in quanto sono all'interno di questa rete e metto a disposizione una quantità di denaro. C'è chi viene a chiedere un prestito, mette insieme una serie di creditori. È un po' lo schema di Ponzi, di Madoff, questo, no? Cioè, ecco, esatto, proprio così, proprio così. No, è lo schema del microcredito. Del microcredito, per cui appunto è basato sull'affidabilità, non più sul fatto che io vado in banca e quindi la banca mi presta i soldi se do delle garanzie, così, ma semplicemente perché io vengo riconosciuto all'interno di questo network. Ecco, ricordiamo che la prossima copertina noi la dedicheremo al dono e chiediamo in un certo Natale, senso, sì, ai lettori di Facebook della pagina di Nova Lab, insomma, di raccontare. Andate lì a vedere, che c'è una proposta, vi interroghiamo, vi chiediamo cose, da sentire il vostro parere, dei vostri consigli, così un po' originali come sempre. Alla Nova io saluto Pierangelo Saldavini, saluto Sandro Mangiaterra, noi ci sentiamo domani alle 4. Ciao ciao.